Blu Radio Veneto. Dai colore alle tue frequenze. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia, Francesco Galante alla parte tecnica. Siamo a un paio di mesi dalle elezioni amministrative che toccheranno la città di Padova e, per quanto riguarda i capoluoghi di provincia del Veneto, anche Verona e Belluno, oltre che tanti altri comuni medio piccoli o anche piccolissimi. Specificamente sulla città di Padova, che da qualche mese è commissariata, i giovani delle principali aggregazioni laicali hanno proposto il mese scorso un incontro insieme per dire la città che vorremmo. Giovani impegnati appunto anche nella scuola di formazione, l'impegno sociale e politico, giovani che pensano alla città futura, protagonisti di un'idea di Padova anche in vista delle già citate elezioni amministrative. L'appuntamento è stato organizzato dall'Azione Cattolica Diocesana, AGESCI, ACLI, CSI, Papa Giovanni XXIII, FUCI, Noi Associazioni, insieme alla FISP, Scuola di Formazione all'Impegno Sociale e Politico, hanno condiviso l'impegno di coinvolgimento e attenzione alle nuove generazioni. La città che vorremmo, una serata che è rientrata tra gli incontri formativi della FISP, serata moderata dal collega del settimanale diocesano La Difesa del Popolo, Luca Bortoli. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Signori, buonasera a tutti e benvenuti per questa serata evidentemente attesa, evidentemente gradita dalla, almeno dal vedere la vostra partecipazione, da vedere il pubblico che c'è qui, che gremisce la sala. Grazie per la vostra partecipazione e grazie perché sarà una serata, lo diciamo subito, insomma, in cui verrà acceso un dialogo e offerta una riflessione. E questo è l'obiettivo di una serie di giovani, di ragazzi, che poi, vedete, sono molto numerose le sedie, verranno a riempirle prestissimo, che fanno parte di una serie di associazioni della città, della diocesi di Padova. Come vedete, le associazioni sono 7, Azione Cattolica, AGESCI, ACLI, Papa Giovanni XXIII, l'associazione Noi, la FUCI e il Centro Sportivo Italiano, che in qualche maniera hanno così raccolto, si sono affiancate con la FISP, cioè la Scuola di Formazione Sociopolitica della Diocesi, e hanno cominciato questa riflessione da alcuni mesi, condivisa. Ne sono usciti 7 documenti per 7 associazioni. Dopodiché la scelta è stata fatta proprio sui giovani che di queste associazioni sono semplicemente parte. Non aspettatevi dei rappresentanti, degli esperti, aspettatevi dei membri di associazione che ogni giorno, spesso in silenzio, lavorano, si danno da fare nella chiesa, nella città, nella società. È un lavoro, se volete, latente, poche volte emerge, tantomeno sui media, lo dico io per primo, insomma, che lavoro nei media diocesani. Però è un lavoro prezioso che costruisce la società, che costruisce la città. Ed è altrettanto prezioso che ci sia ora un'occasione, proprio che è questa sera, così, se volete, anche in maniera, in qualche maniera informale, per farla emergere, per condividerla questa riflessione. Quindi è proprio un lavoro di qualche mese che questa sera viene offerto proprio al dialogo, puramente. Che cosa succede questa sera, così che tutti abbiamo un'idea chiara e possiamo partecipare nel miglior modo possibile? Avremo anzitutto un'introduzione di Marco Illotti, presidente del Centro Sportivo Italiano, e una rappresentanza del tavolo dei presidenti, perché queste associazioni comunque camminano in maniera molto costruttiva da anni insieme. Poi avremo una seconda introduzione di Gigi Gui, ecco qui al mio fianco, è il direttore della scuola della FISP, della Scuola di Formazione Sociopolitica. Dopodiché un breve video, sono 6 minuti, alcuni giovani prenderanno già la parola in questo video. Infine si riempiranno proprio queste sedie e per davvero la città che vorremmo, come dice il titolo di questa serata, di generazione in generazione prenderà corpo. Avremo 2 interventi su 2 temi, una parte di dibattito e poi altri 3 interventi su altrettanti temi. Questo è giusto per darvi un po' un'idea. Noi ci presenteremo, diremo i nostri nomi, chi siamo e chiediamo a voi nel momento in cui vorrete intervenire liberamente, c'è un microfono che gira, semplicemente di alzarvi, di presentarvi e di offrire la vostra riflessione, domanda, condivisione. Ok, allora se è tutto chiaro, intanto ancora vi saluto, ringrazio le ultime persone che ci hanno raggiunto e do subito la parola a Marco Illotti. Grazie Luca, un saluto a tutti, un saluto a tutti gli amici che hanno accettato l'invito a nome delle associazioni. Voglio subito spiegare appunto cos'è il tavolo dell'associazione. Il tavolo dell'associazione è appunto un momento di coordinamento, di pensiero, di confronto tra tutti i presidenti e gli assistenti delle associazioni. In questo momento, in questa esperienza, ci sono uniti anche la FUCI, l'Associazione Giovanni Papa XXIII. In vista delle imminenti elezioni, è noto insomma a tutti, abbiamo un po' fatto una riflessione su come potevamo essere di aiuto in questa fase un po' per tutti e chi potevamo coinvolgere, perché ci sono tante fasce di età, e il pensiero è caduto subito sui giovani, che sono per la maggior parte dell'associazione un po' il centro della nostra attività. Abbiamo fatto girare più volte, avete visto il video di Fiorella Mannoia che diceva ho imparato a sognare, ecco. Il giovane per natura è un sognatore, ecco, quindi. E abbiamo chiesto a loro di cercare, di pensare, di iniziare a sognare la città del futuro, la città che vorremmo. Cosa sicuramente nella città del futuro per un giovane non deve mancare. E il futuro, appunto, abbiamo detto, è come un foglio bianco. Bisogna scrivere, se uno vuole raccontare, parte da un foglio bianco e scrive qualcosa. Il futuro è un po' così. Il futuro è una cosa che dobbiamo realizzare insieme. Quindi noi abbiamo cercato di raggiungere 4 obiettivi. Il primo era coinvolgere il mondo associativo dei giovani, cercando di attirarli, cercando di provocarli in questo lavoro, in questo pensiero, insomma. È una buona cornice per dare una banda comunicativa e aprire un confronto. Quindi il confronto si apre a giovani, che ce ne sono molti, ma anche fra coloro che si candidano e si impegnano a visitare questa città, non per dettare delle soluzioni, ma per aprire un confronto, per lanciare degli spunti, per sottolineare dei desideri. Ecco, quindi lo spazio credo oggi sarà questo. Allora, noi cominciamo subito con un breve video, dove i giovani prenderanno subito parola, sono circa 5-6 minuti. Dopodiché, come vi dicevo, questi 6 si riempiranno e loro prenderanno la voce per la te, insomma, sarà il momento così di ascoltare. Ognuno di loro avrà uno speech di 8 minuti per 5 minuti, come vi diceva all'inizio. Quindi adesso, se la regia è pronta per mandare il video. Salve a tutti, sono Gabriele Santin, ho 29 anni e vivo a Stoccarda, in Germania. Vengo dalla provincia di Belluno e sono un ricercatore di matematica. Ho studiato a Padova, dove ho preso un dottorato con Stefano De Marchi, e poi mi sono spostato qui da circa un anno per una posizione di postdoc. Sono Elena Tolin, ho 29 anni, sono laureata in architettura, libera professionista, mamma in dolce attesa. Mi trovo qui nella mia casa, nel mio comune di residenza, nel quale svolgo il ruolo di consigliere comunale. Sono Lanfranco Genesini, ho 67 anni, sposato con Daniela, 2 figli, Marco e Tommaso. Fino a un anno fa ho insegnato religione al liceo Cornaro di Padova. Solo nell'ultimo periodo prima della pensione ho capito quanto ho imparato dai miei alunni adolescenti. Io ho avuto una formazione scout e ci credo molto a questa cosa di essere pronti per essere utili, che per me vuol dire che non credo che il mondo cambierà del tutto grazie a me, ma credo anche che il meglio che posso fare è per l'appunto provare a fare del mio meglio, sia in campo professionale che in campo umano, che nell'impegno civile e nella vita di tutti i giorni. È proprio in questo luogo, nel mio comune di residenza, nel quale appunto svolgo l'attività di consigliere comunale, che sento di dare il mio contributo al meglio per la costruzione della città del futuro. Perché? Perché è proprio qui che sono cresciuta ed è proprio in questo luogo appunto che sento di svolgere al meglio il mio impegno civico verso una società che mi ha cresciuto, che mi ha sostenuto. Ed è proprio qui che vorrei continuare a far crescere anche i miei figli come sono cresciuta io. Sto pensando che se la mia generazione si lamentasse di meno e desse più buoni esempi, sarebbe già un bel punto di partenza. Per me costruire futuro è passare il testimone ai giovani dando loro fiducia. I giovani sono la vita che ci attraversa e ci oltrepassa. Se vogliamo essere generativi, dobbiamo imparare a lasciarli andare affinché la loro vita sia piena. Il testimone che consegniamo loro è il fuoco dell'umano. Ad essi spetta prendersene cura. Noi siamo custodi del sogno e del mistero. Sogno è desiderare l'essenziale e mistero è amare anche ciò che non sappiamo spiegare. Questo devo offrire, non prediche moralistiche. Da questo punto di vista credo che la mia generazione abbia la grande opportunità, il grande privilegio di potersi spostare, di vivere e lavorare in Europa ed europei. Credo che sia una grande opportunità, soprattutto se penso a quanto in fretta è successo. I miei nonni sono stati partigiani, cioè che i tedeschi ci hanno fatto la guerra, è incredibile che io adesso possa pensare di costruire almeno un pezzo della mia vita qui in Germania. Non so dire quali siano i luoghi e gli spazi in cui potrei esprimermi ancora meglio, perché ogni opportunità, ogni occasione è una nuova sfida per me, nel senso che potrebbe essere migliore o anche peggiore della precedente. E lo sto vivendo adesso con l'esperienza della gravidanza, appunto, che cambia un po' il modo di relazionarmi con il territorio, con la società e anche con le istituzioni stesse. I luoghi e gli spazi in cui penso di esprimermi sono ovunque. Noi cristiani siamo sempre in missione per conto di Dio. Devo dire che a una certa età è forte la tentazione di rifugiarsi in una visione del mondo collaudata e di abitare ambienti rassicuranti. Gli spazi della parrocchia sono ristretti e non c'è limite di età per navigare in mare aperto. Dalle generazioni passate credo di aver ricevuto gli strumenti e la formazione per fare quello che faccio. Questo credo che sia vero sia dal punto di vista umano, e penso a tutte le persone che hanno speso del tempo per me, dai genitori, la famiglia, nello scautismo. Ed è vero anche in campo professionale, nel senso che il mio contributo non sarebbe possibile se non fosse fondato sul lavoro fatto da altri prima di me. Le generazioni passate ho ricevuto come eredità, diciamo, l'attaccamento alle tradizioni del territorio. Questo radicarsi alla memoria, ma la memoria storica appunto dei luoghi e dell'identità della cittadina che si è fatta, che è cresciuta, che si è creata appunto un'identità attraverso stili e modi di vivere o attraverso anche eventi storici, mi stupisce ogni giorno di più e mi fa affezionare a quel particolare ricordo, da sentirlo mio, perché è nata appunto da questi segni che sono presenti nel territorio. Che cosa ho ricevuto in eredità dalla catena di generazioni che mi hanno preceduto? Non sto parlando dei beni materiali, ma della testimonianza di una vita buona, praticabile, in cui le persone contano più delle prestazioni, in cui vali per quello che sei. Eredità è una prospettiva di senso, come significato e come direzione. Eredità è il futuro come promessa, un futuro che appartiene ai giovani. Noi siamo solo servitori della loro gioia, con una certa leggerezza e distacco interiore per lasciare andare e con la coscienza dei nostri limiti. Di nuovo credo che la grande opportunità per i giovani sia di vivere e costruire una dimensione europea e in questo e in tutto il resto credo che possiamo provare a onorare e a mettere a frutto quello che ci è stato dato dalle generazioni precedenti, cioè come direbbe un mio amico, provare a lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Il contributo che possono dare i giovani oggi nell'ambiente sociopolitico è la presenza stessa con la loro vita nel territorio. Far vedere che anche a noi sta a cuore la nostra casa comune, mettendosi in gioco e contribuendo a costruire la società di domani, è il miglior regalo che possiamo fare agli uomini e alle donne di domani. Nella mia generazione, il figlio Edipo, condizionato da un padre autoritario, ha inseguito la libertà come assenza di limiti. Ora il padre è sparito, evaporato, e il figlio Narciso si ritrova solo, depresso e sterile. I giovani hanno questa nobile missione da compiere, andare oltre Narciso. Daranno un contributo originale nella misura in cui torneranno alle origini. Alle origini c'è l'ospitalità incondizionata, la madre, e la responsabilità, il padre. Ecco il contributo che possono dare i ragazzi di oggi: diventare generativi, far fiorire la vita, prendersi cura delle persone e delle comunità in cui vivono, con un paziente giardinaggio dell'anima. Giardinaggio dell'anima vuol dire non limitarsi alle grandi scelte, ma ogni giorno piccoli gesti di gratuità e bellezza. Bene, grazie intanto ad Andrea Canton che ha pensato, confezionato, realizzato questo video. E adesso è il vostro momento, carissimi ragazzi. Avete riflettuto, camminato, pensato, vi siete confrontati in questi mesi e ora salite, prego, occupate pure i vostri posti, quelli che vi spettano, perché siamo qui sostanzialmente per ascoltarvi, per ascoltare le vostre provocazioni, riflessioni e poi confrontarci tutti insieme. Prego. Come vedete, una decina di giovani in rappresentanza delle 7 associazioni. I temi, vi dicevo prima, saranno 5. E partirei subito, prego. Bene, ci siamo tutti. Partirei subito dal tema dell'ambiente. Sull'ambiente c'è stato, come vi dicevo, una riflessione delle associazioni. Adesso abbiamo qui con noi Pietro Salmaso delle ACLI e Giovanni Tolin della GESCI, che così daranno la lettura di questi giovani rispetto al tema dell'ambiente. Ecco il microfono. Grazie a tutti, buonasera, sono Giovanni della GESCI. È stata proprio la GESCI a preparare, a pensare il documento in tema, ecco, di ambiente. Diciamo che sull'ambiente si gioca il futuro non solamente, ecco, di questa città, ma anche della sostenibilità del mondo che noi in qualche modo dovremo lasciare in eredità. Per questo abbiamo pensato a qualche proposta concreta da porre ai candidati sindaci. Un tema importante è chiaramente quello, ecco, della raccolta differenziata, che si sta già attuando in diverse realtà, appunto, ecco, della città, e che deve essere chiaramente reintrodotta anche con maggiore velocità anche in altri territori, in altre zone che non sono ancora coperte, e accompagnare anche questa diffusione della raccolta differenziata con appunto una sensibilizzazione attraverso giornate di impegno civico per i cittadini, ma anche e soprattutto a partire dalle scuole, fin dalla più giovane età, proprio perché si gioca il tema della sostenibilità. Per questo abbiamo anche affiancato, parlando proprio del mondo ecologico, anche il tema della mobilità sostenibile. Padova è una città, ecco, soprattutto universitaria, e i giovani in particolare, così come anche molte altre persone a Padova, si muovono soprattutto utilizzando come mezzo la bicicletta. È importante che la città di Padova sia dotata di una rete ciclabile, funzionante, sempre continuamente tenuta sotto manutenzione, cosa che non accade in ogni punto della città, ma soprattutto anche far sì che ci sia la possibilità che Padova sia attraversata almeno da sud a nord da un percorso ciclabile continuo. Chiaramente questo è complicato per la struttura della nostra città, ma è giusto, ecco, scommettere anche su questa nuova visione di insieme che può contribuire anche a evitare i livelli, ecco, di PM10 che all'interno delle nostre città stanno in tutta Italia stanno raggiungendo, ecco, delle soglie non più tollerabili, ecco, in qualche modo. Aggiungo inoltre che, oltre appunto al tema della viabilità, è importante che i trasporti pubblici, ecco, che comunque sono molto funzionanti nella nostra città, raggiungano in maniera capillare più zone, soprattutto anche con autobus che vadano anche in orari notturni, perché effettivamente una rete di autobus che collega il centro, le zone periferiche della città, tiene viva in qualche modo la città e la presenza dei giovani, così come dei lavoratori o di altre persone all'interno del centro, così come nelle periferie. Concludo il mio piccolo intervento anche sottolineando l'importanza di diffondere in maniera più capillare il bike sharing. C'è la presenza, appunto, di diversi punti posti all'interno, soprattutto del centro di Padova, con, ecco, qualche piccolo punto posto al di fuori di esso. È importante che tutto il comune, effettivamente, di Padova presenti al suo interno questi punti di bike sharing, che permettono di conseguenza l'utilizzo non solamente a chi arriva in centro e a quel punto utilizza la bike sharing, ma anche a chi parte dalle periferie, a chi parte anche da realtà che sono, ecco, più periferiche. Passo la parola a Pietro. Grazie. Bene, a me rimane l'ultimo tema, che è quello delle aree verdi, però questo in realtà ha due sottotemi. Il primo è quello delle aree verdi pubbliche, del verde pubblico, che noi vorremmo sempre più mantenuto, sempre più enfatizzato, sia come mantenimento vero, si piantino più alberi che di quelli che si tagliano magari, e sia come fruibilità, per cui bastano due tavoli da picnic e dei cestini e già una zona verde può diventare un posto di ritrovo. O vari giardini che sono aperti a volte anche una media giornaliera annua di 3 ore al giorno, se fosse possibile renderli più fruibili anche in orari fuori dal stretto pomeriggio alla stretta mattina. L'altro tema grosso invece è quello del consumo di suolo. Questa è una cosa che preoccupa molti di noi giovani ed è, ci si rende conto sempre di più come anche il suolo sia una risorsa che è limitata. A Padova è uscito dei dati ISPRA, il 49% del suolo comunale è consumato. Cosa vuol dire? Ci sono strade, edifici, discariche, qualunque struttura che impedisce la permeabilità e lo rende poco fruibile come area verde. Ecco, quello ancora più preoccupante, al di là della percentuale, che può dipendere dalla grandezza del comune, è proprio il fatto, l'aumento. Sempre i dati ISPRA dicono che negli ultimi 8 anni è aumentato del 7-6% il suolo consumato a Padova. E siamo il primo comune tra i capoluoghi di provincia del Veneto, insieme a Treviso, per questo dato. Questo a fronte di un non sostanziale non aumento della popolazione. Sempre l'Istat ci dice che nel 2003 gli abitanti di Padova erano 10.821, oggi ho letto sul comune di Padova, a fine febbraio del 2017, erano 209.475, con alcune variazioni statistiche nell'intervallo in mezzo, ma sostanzialmente non sta aumentando la popolazione. Quello quindi che noi vorremmo sarebbe che si cerchi di disincentivare il più possibile il consumo ulteriore di suolo, ma si incentivi invece il riuso e la ristrutturazione di strutture già esistenti. Questo in effetti è importante perché mancano in città delle strutture, ci sono tante case sfitte, tanti edifici sfitti, li vediamo tutti in giro per i nostri quartieri, e servirebbero, perché sono due problemi di Padova che potrebbero essere risolti da questo, uno è quello degli affitti agli studenti. Tantissimi studenti fuori sede pagano molto alti affitti per stanze magari fatiscenti o molto vecchie. E l'altro ancora più profondo e che tocca ancora di più la nostra sensibilità come cattolici e a volte un po' dimenticato, a volte un po' tenuto fuori dalla nostra vista, è quello delle persone che non hanno una casa, che ce ne sono ancora tante a Padova. Toccano ciascuno di noi ogni volta che entriamo in contatto con questa realtà e sono un problema a cui pensiamo che anche il comune potrebbe dare una mano. A proposito di questo, per concludere con quello che diceva Papa Francesco a un meeting promosso dal Pontificio Consiglio della Giustizia, della Pace e della Pontificia Accademica delle Scienze Sociali, a proposito del tema di diritto alla casa, e lui diceva appunto che oggi viviamo in immense città che si mostrano moderne, orgogliose e addirittura vanitose, città che offrono innumerevoli piaceri e benessere per una minoranza felice, ma si nega una casa a migliaia di nostri vicini e fratelli, persino bambini, e li si chiama elegantemente persone senza fissa dimora. Grazie. Grazie a Giovanni, grazie a Pietro. Passo la parola. Grazie per aver introdotto questo tema così importante, insomma, alcune idee veramente molto chiare, insomma, raccolta differenziata ancora più spinta, la mobilità sostenibile, attenzione all'aria e poi le aree verdi e il riutilizzo degli edifici già esistenti. Passiamo ora al secondo tema, poi vi ricordo subito un po' di dibattito, quindi se avete già delle questioni, delle domande, delle riflessioni, è già quasi il momento di esporle. Basterà alzarsi, alzare la mano, arrivare al microfono, vi presenterete e potrete così interloquire con noi giovani o anche naturalmente nell'assemblea. È veramente un confronto a tutto tondo. Bene, raccogliamo ora gli spunti dei nostri giovani per quanto riguarda il tema del lavoro. Ce ne parlano Marco Loreggia, che frequenta ora la FISP, insieme con Giovanni Marcuzzo, sempre delle ACLI. Ci avete ragionato? Prego. Buonasera a tutti, sono Marco Loreggia, sono qui in rappresentanza della FISP e sul tema del lavoro noi volevamo più che dare anche qualche spunto concreto di possibile intervento a livello territoriale locale, soprattutto un'idea culturale che deve essere e deve guidare quello che è un intervento o più interventi che possono essere fatti nel corso di un'amministrazione. Noi con la FISP quest'anno abbiamo cominciato l'anno con l'enciclica di Papa Francesco, da cui volevo prendere una frase per iniziare il mio intervento. Il problema è che non disponiamo ancora della cultura necessaria per affrontare questa crisi e c'è bisogno di costruire leadership che indicano strade, cercando di rispondere alle necessità attuali, includendo tutti, senza compromettere le generazioni future. Ecco, da questo punto di vista io vorrei partire perché per quanti possano essere gli interventi, non possiamo dimenticare che due devono essere le linee che devono guidare quelle che sono le idee future. L'aspetto del sociale, quindi l'inclusione dell'essere umano, non l'umano sotto il lavoro, ma il lavoro come mezzo per l'uomo per crescere ed essere parte attiva della società che viviamo. E secondo l'aspetto dell'ambiente, come ci ricordava Pietro, l'intervento precedente, che non può prescindere dall'aspetto del lavoro, cioè come vediamo nella zona del Vicentino l'inquinamento e nella zona di Marghera, cioè non possiamo pensare di progetti a lungo termine del lavoro, quindi anche in questo senso pensare a delle a una progettualità che vada a rispetto di quello che è l'ambiente. In questo senso abbiamo buttato giù un paio di idee che potevano essere un po' insomma aiutare a quella che poteva essere la Padova di domani e possono, diciamo, essere incanalate su tre filoni. Il tema della relazione, cioè un'amministrazione, un comune che voglia dare una linea chiara, deve intessere delle relazioni, una fitta rete di relazioni. Con chi? Con quelle che sono le realtà lavorative locali, quindi Confindustria, le associazioni di categoria, le associazioni di sindacati, perché nello scrivere il bilancio non possono non partecipare queste realtà. E soprattutto con l'Università Padova, dati di 2-3 settimane fa, Padova ha un ateneo che è tra i primi posti sia dal punto di vista di produzione di materiale e anche di qualità di materiale, sia sul punto di vista scientifico che sul punto di vista culturale. Quindi io vedo veramente necessaria non inventarsi cose nuove, ma semplicemente un comune, un'amministrazione che sappia mettersi a disposizione di creare tavoli continui e pianificati con le varie realtà lavorative e dell'università per poter pianificare quelli che possono essere gli interventi concreti sul territorio. Secondo punto, e secondo i due filoni, sia sviluppo di politiche economiche e urbanistiche. Quindi, dal punto di vista economico, puntare a quelle che possono essere in fase appunto di previsione del bilancio, perché sappiamo benissimo che i comuni in Italia non hanno molte risorse a disposizione, devono vivere con quello che hanno. Un bel segnale può essere quello di mettere a disposizione parte di alcune risorse, non stiamo parlando di milioni, 1.000, 10.000 euro, in un capitolo di bilancio che possa essere destinato a quegli progetti di start-up, di disponibilità per i giovani che vedono, una volta finito il loro percorso di studi, la possibilità di lanciare la loro creatività e la loro imprenditorialità qui nel loro territorio locale. Quindi un segnale potrebbe essere anche questo, quindi mettere a disposizione delle somme o delle forze perché i giovani si sentano attratti in questo territorio. Questo, a posteriori, potrebbe attirare anche interessi di interventi dall'estero, quindi investimenti dall'estero, perché si vede qui una possibile, non so, Silicon Valley, quindi la possibilità di vedere qui i ragazzi che possono collaborare e creare nuove risposte anche dal punto di vista tecnologico. E sul piano urbanistico perché? Perché diciamo che qui l'abbiamo un po' macinata, però l'idea dell'Industry 4.0, della Smart City, tutte queste paroloni si concretizzano nella capillarità della rete, quindi sappiamo che dal 2014 con il Comune, Telecom e le varie agenzie sono stati stilati dei progetti per rendere più potente la rete di comunicazione, ma il Comune deve spingere su questo. Nel corso degli ultimi anni sono stati persi lo 0, anche l'1% del PIN a livello nazionale perché non c'era una buona connettività sul territorio. Questo non può accadere perché a livello locale ci sono circa 15.000 società che lavorano con internet, quindi se non comunicano fanno fatica anche a produrre. E dall'altra parte creare spazi di lavoro comune e quindi incentivare anche con, mi viene in mente, il regolamento urbanistico, quindi creare delle politiche che possono mettere, diciamo, a vantaggio quelle che possono essere delle iniziative che vanno a costruire spazi di coworking, politiche per l'incentivo, come diceva nell'intervento prima, recuperare luoghi che vanno a migliorare quello che sono l'assetto di spazi abbandonati, spazi comuni e così via dicendo. Al di là di questi pochi spunti, diciamo, la cosa che è importante che vogliamo lasciare è l'idea proprio di una cultura, cioè la cultura che deve trasparire da questo comune, che deve nascere per dare veramente il senso e il valore delle cose che ogni persona dà ogni giorno quando entra in tangenziale, quando entra a lavoro, quando deve sentirsi motivata a fare il proprio lavoro all'interno del proprio comune. Grazie. Grazie a te, Marco. Grazie, quindi ecco la Padova che i giovani sognano dal punto di vista del lavoro. Rete, ma rete sia internet sia rete di relazioni. Un comune, insomma, che sia capace di creare sinergie, di creare tavoli per creare successivamente lavoro, no? Come se il lavoro si potesse anche creare attraverso delle relazioni così molto ben coltivate, però molto ben volute. Il microfono a questo punto è aperto. Se qualcuno ha già un intervento, un'idea, chiaramente anche tra i giovani, cioè la discussione è a 360 gradi, è il più benvenuto. Basta qualcuno che rompa il ghiaccio, una mano che si alza, una condivisione, un commento, anche una domanda, sapendo che anche noi abbiamo molte più domande che non risposte, anche al di qua del tavolo, chiaramente. Però proprio in grande libertà. Rompo il ghiaccio io, visto che... Sì, ci presentiamo. Una cosa che mi ha colpito, sono Arturo Lorenzoni, uno dei vostri ospiti. Ho anche una domanda. Come mai siete 10 maschi e una femmina? Cioè, questa è una cosa che mi ha colpito molto, lo dico sinceramente. Se guardo di qua, il rapporto non è 10-1, se guardo di qua sì. Sostenibilità è anche questo, pensiamoci. Grazie. Una provocazione interessante, anch'io me la sono posta come domanda la prima sera. Ecco, quello che possiamo dire non è stato una scelta di noi, cioè selezionarci tra maschi, insomma, ma non siamo risultato di una selezione naturale che ha voluto escludere qualcuno, ecco, ma la domanda è un po' da ribaltare, forse noi la rigiriamo, visto che viene posta a noi, noi la rigiriamo un po' ai presidenti delle associazioni, che poi sono stati un po' loro a individuare queste cose, quindi noi la rimandiamo a loro. Al di là di questo, credo che sia interessante osservare che a volte si fa fatica, e questo ce l'ho un po' a cuore perché sarà un po' il punto, si fa un po' fatica a partecipare a questi tipi di incontri, quindi ecco, questo forse è un po' un augurio che facciamo, che a noi di cercare di coinvolgere sempre più persone. Bene, c'è un intervento? Presidenti, si sono sentiti chiamati, Perché anzi insomma, no, prima con Gigi, poi avevamo notato subito, dov'è Gigi, è scomparso, eccolo là, avevamo notato subito questa cosa, però diciamo, noi ci siamo detti subito, evidentemente le donne sono molto più impegnate degli uomini, quindi, no, ma infatti è questo, perché conoscendo i motivi di perché le ragazze non ci sono, perché hanno altri impegni stasera, ma non stiamo scherzando, c'è chi deve fare una cosa, deve fare un'altra, e quindi casualmente è capitata questa proporzione 9-1, ma non è la normalità, diciamo, ecco, questo lo assicuriamo. Grazie. Allora, la cosa interessante è che Marta, l'unica ragazza, Marta Lazzaro della GESCI, parla di partecipazione insieme a Nicolò Spezia della C e a Pietro Calore delle ACLI. Quindi, prego. Grazie. Allora, io mi sento chiamata in causa in particolare perché donna e perché parlo della partecipazione. E sono qui non perché non avevo niente di meglio da fare stasera, ma perché proprio per la partecipazione ho scelto fra i tanti impegni di essere anche qui. E noi vediamo come giovani la partecipazione come un valore fondamentale che deve essere reso concreto nella città di Padova. Non si può solo riempirsi la bocca di questa parola e senza poi dare la possibilità di essere veramente incisivi nelle scelte che ci riguardano come cittadini della città e anche parte della comunità che noi vogliamo costruire. Tutte le cose che ci aspettiamo dall'amministrazione comunale sono rivolte un po' in questa prospettiva di coinvolgere le persone più possibile, perché proprio dal fatto di sentirsi parte, appartenente a una comunità che ha un obiettivo da perseguire, che ha un valore da condiviso, da portare avanti, si sentano chiamati ciascuno personalmente a portare il proprio personale e irripetibile contributo. E la cosa che è scritta lì, l'ascolto delle fasce più deboli con meno possibilità di rappresentanza, è uno dei temi che ci sta particolarmente a cuore. E io parlo anche come associazione scout, in questo caso la GESCI, che è cattolica e non è la sola nel nostro territorio. E siamo tutte persone qui rappresentate di varie associazioni che si mettono a servizio in qualche modo. E si mettono a servizio anche di quelle fasce di popolazione più svantaggiate, sia economicamente che educativamente che socialmente in generale. E la nostra attenzione va alle persone che non hanno la possibilità di far sentire la propria voce in modo immediato, facile e sempre garantito. Quello che ci aspettiamo dall'amministrazione che verrà eletta dalla cittadinanza è la possibilità di creare le condizioni perché questo possa avvenire, perché tutti abbiano la possibilità di dire la propria, perché non si sentano abbandonati anche dalle istituzioni politiche, ma anche dalla società civile, un po' rattristati e rassegnati al fatto che la propria voce non ha un peso. Noi vogliamo che la voce di tutti abbia un peso e ci facciamo anche portavoci di chi una voce non ce l'ha così facilmente. Ecco, quindi noi abbiamo pensato che per favorire questo, per i processi di integrazione, di sostegno, alcune cose concrete possono essere fatte, in generale a partire dalla progettazione degli interventi da fare in città sul sociale, di essere incisivi nel momento in cui ci si troverà a parlare con chi da anni e da sempre nel territorio opera con delle persone che sono in difficoltà di vario genere, e quindi sentire la loro opinione, perché sono proprio quelle che hanno la visione più periferica e capillare dei problemi e delle esigenze delle persone, e di creare le condizioni perché tutti quanti si sentano protagonisti di una città che vogliono creare, perché abbiano la sicurezza che anche la loro voce verrà ascoltata. Ecco, quindi instaurare dei tavoli di dialogo sicuramente è uno dei passi per cui noi abbiamo fiducia che l'amministrazione potrà aiutarci. Ecco. E su questo tema del dialogo passo la parola a Nicolò dell'Azione Cattolica. Grazie, buonasera a tutti. Grazie. Sì, ci piaceva così sottolineare, come un po' detto Marta, il tema del dialogo e del dibattito. Lo sappiamo tutti che dialogare è estremamente difficile e tante volte porta via un sacco di tempo, però riteniamo, ci piaceva porre l'accento come il dialogo e anche il dibattito sia importante per raggiungere un risultato migliore. Quindi riconosciamo tutti che è faticoso, che porta via tempo, ma allo stesso tempo riteniamo che sia indispensabile affinché il risultato sia migliore per tutti. Dialogo con chi? Dialogo con i cittadini, prima di tutto, dialogo con le associazioni, che a Padova sono molte e sono attive e che tante volte magari non vengono ascoltate o prese in considerazione, ed è già stato detto dialogo con le istituzioni. Ecco, ci piaceva sottolineare questo aspetto. E come ultima cosa riguardo al dialogo e al dibattito, ci piace l'idea che questo non sia un alibi che tante volte viene usato per non fare le cose. Cioè si parla tanto, ma alla fine non si arriva mai a concretizzare nulla. Allora ecco, importanza del dialogo, ma che sia anche un dialogo che porta a raggiungere qualcosa, che non sia solo uno stare a parlare. Buonasera, io sono Pietro, parlo per le ACLI, sono studente di filosofia a Padova. Una cosa che a conclusione di questa area tematica ci importava sottolineare era che è importante sì far parlare chi non ha voce, quindi coinvolgere tutti, discutere con tutti, quindi anche ascoltare, ma alla fine per un sindaco è importante decidere, no? Sappiamo che, come ha detto, non si può raggiungere un accordo su tutto. Spesso i compromessi sono peggio che, come dire, prendere una direzione e portarla fino in fondo. Spesso i compromessi sono al ribasso. Quindi non si può pretendere di mettere sempre d'accordo tutte le parti. D'altra parte, però, una cosa che a noi sembrava giusto sottolineare e che è una giusta pretesa, secondo noi, è la pretesa che le decisioni siano prese con trasparenza. Questo bisogno di trasparenza si colloca su più livelli. Innanzitutto una trasparenza nella consultazione, perché una decisione si prende dopo che si è discusso, ok? Quindi bisogna partire dal basso. La trasparenza deve essere nella consultazione, quindi come abbiamo già detto più volte, nel coinvolgere le varie realtà locali, le varie persone che lavorano nella vita della città. Poi la trasparenza deve essere in un momento successivo, quindi nel dibattito, che deve esserci. E poi alla fine la trasparenza deve essere anche nella verifica dell'azione di governo, nel senso che la trasparenza deve essere da parte dell'amministratore nel dire quello che la propria amministrazione fa, raccontare quello che fa, e permettere agli altri di ascoltare la sua narrazione e poter mettersi, come dire, il naso. Questa trasparenza, d'altra parte, a sua volta, si colloca su due livelli, potremmo dire. Un livello un po' più diretto, che è quello del sindaco, della giunta, con i cittadini, quindi un dialogo senza corpi intermedi. E poi, una trasparenza più indiretta, potremmo dire, cioè una trasparenza che si colloca in una relazione che è mediata tra il sindaco e i cittadini dai media, evidentemente, no? Quindi mi premeva sottolineare anche questo duplice aspetto, cioè l'amministrazione dovrà impegnarsi, la nostra amministrazione, quella che vorremo, dovrà impegnarsi da un certo punto di vista nella trasparenza indiretta. Cioè dovrà non sottrarsi al dibattito, per esempio, televisivo, non sottrarsi al dibattito giornalistico, non delegittimare gli organi di stampa, anche se apparentemente magari di opinione contraria alle proprie, non delegittimare nessuno, dire la propria, evidentemente non si può fare a meno, e quindi insomma partecipare alla vita dei media. Questa è una cosa che anche a noi giovani interessa, perché purtroppo o per fortuna ci troviamo a vivere nei media. D'altra parte c'è anche ci teniamo a sottolineare che il politico, soprattutto un sindaco che vive in un ambiente civico, non come un presidente del consiglio o un capo di Stato, insomma, può parlare col cittadino. Quindi ci teniamo che ci sia un rapporto personale con le persone. Quindi che ci sia un'occasione di incontro fisico. Quindi una buona iniziativa che sarebbe bene continuare sarebbe quella degli incontri di quartiere, molto partecipato. Ma poi qualsiasi occasione di incontro, partecipare a fiere, organizzarle, magari anche con gli studenti che rappresentano una buona quota della nostra cittadinanza, o trovare delle occasioni di incontro anche direttamente con gli studenti, senza passare tramite magari i sindacati degli studenti, ma parlare con gli studenti, che magari non tutti si sentono rappresentati. D'altra parte esistono anche i social, quindi un altro strumento che per incentivare il rapporto diretto con l'elettore, che secondo noi è legittimo usare, è anche quello dei social. Quindi sì, parlare in faccia alle persone, però anche se vogliamo raccontare a tutti quello che facciamo e ricevere da tutti un riscontro, pur nelle dimensioni limitate di una città, che ne so, una buona pagina Facebook, in cui condividere video, informazioni, articoli, buona questa iniziativa del numero WhatsApp con cui, che ne so, mandare una foto della buca per strada, mandare la foto del cartello spaccato, mandare un messaggio per dire qui c'è un problema, qui ce n'è un altro, creare delle commissioni apposite per raccogliere queste informazioni, magari utilizzare anche meglio il sito web del comune, che non sarebbe una cattiva idea, magari ammodernarlo e arricchirlo. Ricordiamoci sempre che libertà, come diceva Gaber, libertà è partecipazione. Quindi non c'è libertà se non c'è la partecipazione. Noi premiamo perché il prossimo consiglio comunale, insomma, renda i cittadini di Padova partecipi dell'amministrazione di Padova. Grazie. Bene, molte grazie anche a Marta, Nicolò e Pietro. Partecipazione significa anzitutto dare voce, la voce che ha peso, diceva Marta, anche di quelle persone che tendenzialmente magari sembrano rivestirne meno di peso, ecco. Anche qua è tornata l'idea dei tavoli di dialogo, no? C'è voglia di dialogo, di partecipazione vera, di incontri fisici anche, diceva adesso Pietro. E poi un dialogo che però non sia sterile, cioè si arriva alla decisione, siamo anche disposti, sembrano dire questi giovani, ad accettare il compromesso, non sempre detto che sia a ribasso, purché sia trasparente la maniera in cui ci si arriva, purché sia chiaro il criterio in base al quale si sono fatte le scelte. E questo è un po' quello che mi è sembrato di cogliere. Dopodiché saremo curiosi di sapere anche voi che cosa avrete colto anche da questa terza tematica affrontata in questo speech a tre. Andiamo avanti. Due temi in uno, sport e salute. La parola è ora a Francesco Bruschi, che anche lui frequenta la FISP quest'anno. Buonasera a tutti. Allora, da il confronto che abbiamo avuto sono saltati fuori principalmente tre punti. Uno, in merito alla creazione e promozione di eventi sportivi. Padova, c'è da dire che è una città in movimento. Ci sono tanti eventi sportivi, anche grandi. Penso per esempio il Corri per Padova, che mobilita quasi una città. Penso la maratona che viene fatta. Penso anche al meeting di Padova, che però forse non viene tanto pubblicizzato. Parlando con anche altre persone di Padova, non sapevano dell'esistenza. E guardando su Wikipedia, per esempio, è il secondo evento a livello nazionale, dopo quello di Roma. Però c'è poca visibilità. E questi eventi danno visibilità di Padova al di fuori, chiamano persone anche. Turisti, per esempio. Il secondo punto era associato alle strutture sportive. Io non sono di Padova, vengo da Piacenza, e una cosa che ho notato, per esempio, è che l'accesso ad alcune strutture sportive, per esempio le piscine, è abbastanza caro. A Piacenza, per esempio, io l'accesso singolo lo pago 5 euro. Qui siamo intorno agli 8. Troppo, non lo so, penso che l'acqua sia uguale da una parte e dall'altra. Però penso anche che un costo un po' più basso aiuti il giovane ad avvicinarsi alla pratica sportiva, vada incontro magari alle famiglie che hanno diversi figli e quindi favorisca la partecipazione, favorisca, aiuti le persone a vivere quei luoghi. Vivere quei luoghi anche come spazi verdi, l'argine in cui andare a correre. Un tempo le città, come luogo di ritrovo, avevano la piazza col pozzo. Ora tutti abbiamo l'acqua in casa. Qual è quello spazio che fa riunire le persone in un posto? Perché aiutare questi posti a crescere, perché non siano solo un appendice del quartiere, ma un fulcro, un punto di incontro, di socializzazione tra le varie persone. E infine, col termine sport va di pari passo il termine salute e il termine educazione. I ragazzi che fanno attività sportiva devono crescere. E quindi penso agli allenatori che lo fanno per professione o lo fanno per passione. Sono persone che prima di tutto, oltre a insegnare una pratica sportiva, sono anche educatori. Perché non fornire dei mezzi, degli strumenti, una qualche forma di istruzione per aiutare il ragazzo nella propria crescita? Anche perché magari molti ragazzi, oltre alla scuola, è l'unica attività che fanno extra. Non hanno magari la partecipazione a una qualche forma di associazione che aiuti il ragazzo a crescere nella collettività, nella comunità. E In merito alla salute si fa tanta promozione dell'attività sportiva in quelli che sono i principali canali di formazione. Si pensi per esempio alle scuole, c'è stato poco tempo fa sotto Carnevale la settimana dello sport. Però quello che forse è necessario è una sorta di istruzione alla salute. Anche perché appunto io vengo da fuori, il Veneto è famoso per cosa? Venezia e l'alcol. È chiaro, se io devo andare a prendere uno spritz qua, lo pago 2,50 euro, 3, da me costa 6 euro. Ci penso un attimino di più. Quindi sicuramente quello che ho visto è che il proibizionismo finora non ha portato da nessuna parte. L'annullare l'offerta non risolve il problema. Magari lo sposta in un'altra zona. Chiude un locale, benissimo. Se ne apre un altro. Quello che forse si fa poco è sulla domanda. Perché comunque l'offerta trova sempre un canale secondario, più o meno legale, per andare incontro alla domanda. E con questo ho concluso. Grazie. Grazie. Insomma, un'idea di sport che va oltre la semplice pratica sportiva. Sì, c'è bisogno di strutture, magari con condizioni più favorevoli per famiglie e giovani, dice Francesco, però lo sport è anche un'arma molto importante per l'educazione, per il coinvolgimento, per creare socialità. E magari anche così per fare un uso migliore, più sobrio, diciamo, di certi vini, che però sono anche così una ricchezza culturale, no? Se utilizzati al meglio. Bene, adesso passiamo all'università e alla cultura. È il nostro ultimo punto, sostanzialmente. Ci aspettiamo il vostro feedback. Prima ve l'abbiamo un po' così lasciata passare, ma poi vi aspettiamo al varco. Bene, allora, di università e di cultura parlano Calogero Peritore della FUCI ed Enrico Ramazzina del Noi. Il microfono è quello qua ed è a voi. Buonasera, io sono Calogero Peritore della FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e come intuirete dal mio nome e dal mio cognome, io non sono di Padova, vengo da 1367 km più giù e faccio parte di una di quelle categorie che non ha voce in capitolo, tra virgolette, perché sono uno studente fuori sede e io non posso votare per l'amministrazione qua a Padova. Tuttavia, noi studenti fuori sede siamo tra quelli che vivono di più forse la realtà cittadina, perché io trascorro buona parte dell'anno qui e un po' sento Padova a casa mia e vorrei che l'amministrazione fosse più presente nella mia vita, sia di studente sia di cittadino adottivo di Padova. E questo potrebbe avvenire innanzitutto con un maggior dialogo dell'amministrazione cittadina con l'università e con i corpi intermedi. Perché, ad esempio, io qui, quando sono arrivato a Padova, mi sono rivolto prima di tutto a un'associazione a cui appartengo tuttora, Azione Cattolica, che mi ha condotto alla FUCI. Quindi è essenziale che l'amministrazione non venga sostituita da corpi intermedi, ma venga coadiuvata e li sostenga. È importante che l'amministrazione dialoghi con l'università per rendere più fruibili sia gli spazi relativi agli studenti come le aule studio, ad esempio il centro San Gaetano gestito dal comune, sarebbe bello se fosse dotato della rete Edurom gestita dall'Ateneo, che è una rete internazionale anche a cui gli studenti Erasmus possono avere diritto. Sarebbe bello che l'Ateneo estendesse gli orari di accessibilità l'Ateneo e l'amministrazione collaborassero per estendere gli orari di accesso alle aule studio. E in generale, quello che manca a Padova essenzialmente è un punto giovani dove sia possibile che lo studente universitario, lo studente fuori sede, possa rivolgersi per le sue esigenze. Innanzitutto a partire dall'alloggio, che non è cosa semplice trovare qui a Padova, sia per quanto riguarda gli appartamenti, sia per la gestione della rete dei collegi, che sono tanti a Padova, però non c'è diciamo, un organo centralizzato che possa aiutare gli studenti fuori sede, spaesati, a avere un supporto da parte dell'amministrazione. E questo è quanto vorremmo. Salve, sono Enrico e rappresento il Noi. Prendo un foglietto, sono qua a rischio di perdermi. Allora, gli ultimi due punti che andremo a affrontare sono universitari, spazio ludico, ricreativi, spazi di creazione. Poi l'ultima parte, quella che insomma è vero che possibilmente qua mancano, ci sono poche ragazze, ma anche questa serata sono assente una parte che comunque è fondamentale sia per l'attuale che per il futuro, è quella dei giovani, che effettivamente ha il suo futuro e insomma è importante per noi, per la città. Iniziamo con quello che è il tema universitario e, come diceva anche Calogero, e qua a Padova manca uno spazio che sia di aggregazione in cui gli universitari, ma in generale tutti quanti giovani, diverse età, possano trovarsi per parlare, per organizzare, ma anche semplicemente insomma, per stare insieme. Sarebbe anche bello che poi questo, insomma, si potrebbe pensare anche di riorganizzare, di strutturare spazi come può essere i giardini dell'arena, in questo periodo sono insomma poco utilizzati, spesso sono utilizzati per altri motivi, sono una perdita per Padova. Poi questi spazi sarebbe anche molto bello che andessero e lavorassero insieme a quelli che sono gli spazi strutturati, quali Centro San Gaetano e anche il CUS, dove poi si svolgono le attività universitarie più strutturate. Ultimo punto sui giovani e gli adolescenti. Parto con un'esperienza che ho vissuto personalmente qualche tempo fa nella mia parrocchia. Un campo da calcetto dove giocavano a calcio ragazzini di 7-8 nazionalità differenti. Cos'è che mi ha colpito molto quel momento là? Che essenzialmente tutti quanti cercavano e comunicavano con una sola lingua, che è quella che utilizziamo anche in questo momento, che è l'italiano. Non c'erano differenze di nessun tipo in quel momento. Questa è stata veramente una cosa bellissima a cui ho assistito. Ed è da questi punti di aggregazione dove i ragazzi si trovano, che dobbiamo intervenire per difendere i ragazzi dal mondo che è esterno, da alcune volte da difficoltà che abbiamo in prima persona, che poi ricadono maggiormente su quelle che sono la fascia anche più debole, meno visibile, infatti qua siamo solo adulti, che sono i giovani. Però questa cosa qua sembra una cosa irrealizzabile, distante, ma non è, per fortuna non è così. Sarebbe bello che, come appunto oggi siamo un insieme di associazioni che parlano, dialogano, di associazioni sul territorio che si occupano di giovani, sempre ci sono gli scout, anche il circolo Noi che è sulle parrocchie, che è sempre a stretto contatto con i giovani, e collaborino e si aiutino a vicenda per dare una mano e sostenere i ragazzi, creare una rete sociale intorno ai ragazzi in difficoltà che per vari motivi, povertà economiche, educative, sono in difficoltà. E ripartire dai giovani. Proprio in questo momento storico in cui si tende a chiudersi un po' preoccupati del proprio futuro, delle nuove sfide sociali che si prospettano, è fondamentale intervenire fin da subito sui giovani e sulla loro innata spinta alla scoperta e all'incontro. È vero che poi a fine legislatura i giovani non fanno bilancio e non creano, meno quelli molto piccoli, non creano introiti, però è sempre quello che secondo me manca, è un guardare avanti, guardare i prossimi 10 anni e intervenire su quelli che sono i giovani di adesso, che saranno i futuri domani, gli adulti di domani. Grazie. Grazie anche a Calogero e ad Enrico. Allora, è molto interessante constatare la fiducia intanto che c'è in questi giovani. Sicuramente le idee non sono un programma organico, sono idee anche impegnative, a volte possono essere desideri, sogni, però sicuramente traspare la fiducia che c'è nella politica, in un'amministrazione che riesca a creare questa rete sociale attorno ai giovani e non solo, che riesca a creare dei tavoli di dialogo sia per quanto riguarda il lavoro, sia per quanto riguarda la partecipazione, che possa progettare una città più verde, meno cementificata, dove si riutilizzano le risorse che già ci sono, dove lo sport possa essere più fruibile per tutti e dove l'università ancora di più di quello che magari può essere con 61.000 studenti in città, diventi qualcosa di quanto mai integrato nel sistema città, anche grazie all'azione dell'amministrazione. Quindi è un futuro desiderato, un futuro proiettato, se vogliamo, no? In queste prese di posizione dei giovani, però è un futuro veramente ricco di sostenibilità, ma anche di attività realizzabili. Bene, e adesso prego, c'è la prima reazione, arriva il microfono, come sempre ci presentiamo. Sono Silvana Bortolami, buonasera. Buonasera. Allora, è decisamente una serata, mi sentite? Una serata molto interessante, molto importante per la città. E, allora qualche domanda, non solamente una, qualche. Non dico con chi mi sono confrontata mentre vi ascoltavamo. Allora, sulla base di quello che voi avete detto, si immagina o immaginiamo che non sarà solamente questo un primo momento di incontro, diciamo, con le istituzioni. E quindi quali percorsi immaginate, concreti, pratici, di intervento preciso? Da questa serata sembra quasi che siano dei momenti di dialogo, ma noi ci chiediamo anche, ma ci potrebbe essere una presenza nelle istituzioni e in che termini esserci? La terza domanda è questa, dopo mi fermo. La terza domanda è questa, una capacità di lettura della situazione significa avere anche delle conoscenze tecniche ben precise, vuol dire conoscere i bilanci, no? Il pilastro. Allora, rispetto a questo, che vuol dire entrare dentro i meccanismi e dire anche su questo, perché questa è la trasparenza, è riuscire a leggere un bilancio e farlo capire alle fasce anche più deboli, perché poi la nostra città è costituita da, vero Giampiero, più del 50% di anziani? Ecco bene, da 75. Ecco, quindi anche questo ve lo siete posto e in che termini? E quindi questa relazione costante va oltre questi momenti e come poi devono essere secondo voi strutturati all'interno di un percorso, di un dialogo costante con i non solamente con i candidati sindaci, con chi sarà sindaco, ma con le giunte, ma con la giunta, con i consiglieri, questa costruzione costante di relazione che mi sembra voi stasera volete, ecco, in qualche modo intraprendere come percorso. Grazie. Molte grazie. Sono questioni molto interessanti. Cominciamo già a rispondere, direi, perché di carne al fuoco ce n'è. Sono tre le domande. Parte Nicolò, poi Marco. Grazie per lo spunto. Magari io, provo ad aggiungere qualcosa forse alla prima provocazione. Mi sento di dire un po' una cosa, nel senso che questa proposta che noi abbiamo fatto questa sera non vuole essere nient'altro che una serie di sottolineature su alcuni temi che secondo noi erano importanti, erano interessanti da tenere come punto di riferimento. Chiaramente siamo perfettamente consapevoli che sono proprio delle sottolineature e tante volte io immagino che mentre avete sentito questi interventi qualcuno ha pensato ma questo è un libro dei sogni, cose scontate che tutti vorrebbero, poi bisogna concretizzarle, bisogna andarle a realizzare e di questo siamo consapevoli e ci piaceva almeno dare queste sottolineature per dare alcuni segnali all'inizio e sì, magari raccogliamo la palla al balzo e forse anche tra di noi, ma non solo noi qui questa sera, ma tra associazioni, forse c'è bisogno di lavorare ancora, di approfondire questi temi, di fare in modo che questi temi, queste idee diventano anche poi indicazioni concrete e realizzabili, anche tenendo conto delle difficoltà tecniche, economiche, di bilancio. Quindi sì, per noi non veniamo da una storia di gruppo, di riflessione insieme di mesi e mesi. Questo forse è stato il primo inizio, vediamo se tra queste associazioni che questa sera noi rappresentiamo molto umilmente possa nascere qualcosa, un percorso anche per il futuro. Grazie Marco, poi Pietro. Io volevo fare un intervento sulla terza domanda. Allora, partecipazione chiaramente non vuol dire che il sindaco parla con ognuno dei 200.000 abitanti di Padova. Vuol dire creare degli incontri all'interno del quale si creino le opportunità perché ci sia un confronto e soprattutto un passaggio di informazioni. Partiamo dal fatto che chiaramente pochi capiscono il bilancio di un'amministrazione pubblica, a volte neanche i diretti dirigenti, perché è talmente complicato col decreto legislativo 2011-2014, bilancio di cassa, quest'anno è cambiato di nuovo, quindi continua ad essere un continuo cambiamento e anche per gli amministratori locali continua ad essere un problema. Ad ogni modo, se il Consiglio Comunale, che per noi diciamo è il Parlamento a livello locale, è da una parte l'organo che prende le decisioni, ma allo stesso tempo è l'organo all'interno del quale si riesce anche a presentare quelle che sono le informazioni, magari con un PowerPoint, magari semplicemente con una descrizione, e riprendere questo e dare delega, non per forza direttamente ai sindaci, ma a qualche delegato, un assessore, un consigliere, che all'interno dei singoli quartieri faccia degli incontri per dire: noi il bilancio abbiamo pensato così, queste sono le entrate. Indicativamente una persona ogni anno dà 400 euro al proprio comune, di cui 20 vanno per la sicurezza, 2 vanno per l'illuminazione pubblica. Insomma, questo darebbe anche la possibilità di mettere in evidenza quelli che sono gli interventi che il Comune fa per il Paese e rendere chiaro a quello che è un cittadino l'impegno che fa l'amministrazione comunale. Quindi non necessariamente entrare nelle specifiche di un bilancio, però diciamo che anche la tecnologia con una semplice presentazione, qualche grafico, qualche colore potrebbe aiutare a far passare sia l'impegno che l'amministrazione fa e quindi chiarire anche quali sono i punti, perché un bilancio si divide per funzioni, funzione sul sociale, funzione, e quindi mettere chiaramente per voce quelli che sono gli impegni. Dall'altra, far capire anche ai cittadini che amministrare un comune non è semplice e i cittadini, dall'altra parte, devono partecipare alle assemblee, perché è inutile che poi l'amministrazione faccia le riunioni e nessuno partecipa, perché c'è da dire anche questo, quindi è sia una provocazione verso le amministrazioni ma anche verso quelli che sono i cittadini domani. In questo senso richiamo ancora una volta il senso della cultura, c'è una cultura che deve richiamare la partecipazione e in questo senso anche il controllo di quello che fa l'amministrazione, quindi con semplici incontri. Grazie. Quello che vorrei chiarire sulla cosa, noi siamo tutti giovani che comunque lavorano all'interno delle associazioni e già lì fanno dei processi di partecipazione, di contatto col territorio, ciascuno all'interno di quello che fa la sua associazione. L'unione di queste è in realtà una novità, il parlarsi, si parlano a livello dei presidenti, cioè un tavolo dei presidenti alle varie associazioni, e loro sono sempre stati in comunicazione, invece questo gruppo di giovani è una novità. E per ora lavorava alla preparazione di questo momento, sulle proposte concrete, hanno detto ma vediamo con le sensibilità delle varie associazioni che cosa vogliamo proporre per la città. Per cui l'idea è continuare a mantenere questo gruppo in qualche modo vivo, abbiamo trovato molto proficua la collaborazione, il parlare tra noi e penso che continuerà. Le forme e la struttura e quella funzione che avrà finora, che avrà nel futuro, non è ancora determinata invece. Molto bene, grazie. Pietro? Ah, prego, prego. Sì, sì, prego. Vai Mattia, Pietrello del CSI. Sì, grazie. A questo proposito, comunque mi viene a dire, infatti, appunto, questo gruppo è un po' una novità, così siamo in qualche modo stati chiamati a farne parte e via discorrendo. Però comunque, cioè noi siamo andati da fare per organizzare questo momento, questa serata, questo momento di confronto, ma non abbiamo, tra virgolette, i mezzi per poter dare una continuità, una più profonda integrazione con quello che sarà l'amministrazione comunale nel nostro lavorare insieme e confrontarci. Questo sta un po' appunto a quella che sarà l'amministrazione. Non so se si vorrà dare più spazio anche in futuro a questo coordinamento, perché comunque una riflessione che era stata fatta è che l'unione di così tante associazioni che operano comunque nel territorio, ciascuna a modo suo, è diciamo una rappresentanza di una grossa fetta delle cose che vengono fatte anche solo a livello sociale nel territorio. Mi viene un esempio banalissimo, proprio così da dire, per esempio, non lo so, la Caritas si occupa appunto del problema della povertà e comunque opera, fa qualcosa di concreto. E in qualche modo, quindi, lavorare insieme a quello che è l'amministrazione quando va a operare, eccetera, sentire quello che fanno queste associazioni già nel territorio, giusto anche solo per non remarsi contro, in qualche modo creare uno spazio, noi ci siamo, siamo questa rappresentanza, volendo si può continuare. Grazie Mattia. Pietro? Sì, brevemente, io volevo, cioè, il mio intervento voleva essere poi una sollecitazione anche appunto ai presidenti che sono qui presenti, candidati sindaco, per dire le parrocchie, io ne vivo in particolarmente una, sono delle scuole di formazione incredibili, solo nella mia parrocchia collaborano e convivono in un numero esorbitante di associazioni, gruppi, laboratori, per dire anche io nel mio piccolo gestisco un gruppo ACR, per dire, in un anno si ha occasione di fare autofinanziamenti, di dipingere stanze, organizzare spese, campi scuola, GREST, cioè le parrocchie sono una scuola di formazione politica. Quindi sarebbe davvero uno spreco non sfruttarci, come dire, noi siamo qua, è tutto volontariato, penso che se il volontariato riuscisse in qualche modo anche a portare il suo contributo in politica, meglio di così, no? Cioè. Insomma, sostanzialmente stiamo tutti quanti assistendo a un vero e proprio work in progress, cioè il gusto del dibattito per il dibattito, che a un certo punto è uscito dalle sale del dibattito ed è diventato così, riflessione a disposizione. Prego, altre domande? Ecco qua, addirittura tre mani alzate con ordine, adesso arriviamo a tutti e tre, prego. La mia più che una sono Claudio Bressan. Grazie. Più che una domanda è un ringraziamento a questa gruppo di a questo gruppo di giovani. Perché sì, chiedo di tenere il microfono, sì. C'è Blu Radio Veneto che registra, quindi queste sono voci, ripeto, che rimarranno, le potete risentire nei prossimi giorni. Volevo ringraziare questi giovani perché un po' volontariamente, forse anche involontariamente, hanno sottolineato un aspetto importante che forse nel tempo, anche condizionato forse dalla politica nazionale, si è perso nella figura del sindaco. Il sindaco non è un governatore, non è un capo, è un amministratore. E l'amministratore amministra una cosa che non è sua, è di altri, e deve giustamente rendere conto nella trasparenza e nella collaborazione. E quindi ringrazio veramente voi di aver sottolineato questi aspetti. Grazie. In fondo alla sala, ecco lì la mano alzata. Buonasera, sono Emanuela Albano, abito tra l'altro qua vicino. A me sorprende più il taglio generazionale che non la separazione maschi-femmine, perché siamo tutti abbastanza grandi da non scandalizzarci per queste cose, no? L'altra cosa è che, francamente, a me sembra che a Padova ci sia tutto. E l'unico limite forse, ed è quello che forse un po' manca, è la valorizzazione. Nel tempo, forse quello che è venuto meno, io sono di Padova, nata a Padova, mi piace Padova, e i punti di riferimento sono venuti un po' meno, nel senso, quando Calogero, giusto? Dov'è? Eccolo lì. Quando Calogero diceva noi studenti fuori sede dove possiamo andare, la domanda che mi viene da fare ai candidati sindaco tramite lo spunto che è stato dato è rendere un po' più chiaro e accessibile quali sono i punti di riferimento, perché forse quello che si è perso nel tempo è l'accessibilità diretta, cioè si sono create troppe infrastrutture, è diventato troppo burocratizzato sono diventati un po' burocratizzati certi passaggi. L'anno scorso abbiamo avuto l'opportunità di portare a Padova una missione universitaria. È stata un'esperienza molto bella e secondo me è stata un'esperienza che si è scontrata a vari livelli con quelli che erano le maglie un po' strette della burocrazia, no? Allora mi viene da dire, un'attenzione forse più che creare cose nuove è dare sostegno a quelle che ci sono. E qui c'è una domanda che è, oltre a chiedere spazi, oltre a chiedere risorse, come ci si può dividere le responsabilità tra amministrazione e persone che fanno parte della città, perché non credo che per dare un contributo alla città si debba essere per forza, no? Residenti, giusto Calogero? Allora, quali sono gli spazi in cui possiamo anche prenderci una responsabilità, visto che non siamo gli adulti di domani, siamo quelli che votano oggi? Cioè, il nostro voto vale oggi, non vale domani. E quindi la domanda è esattamente una ripartizione delle responsabilità che non sia solo in termini, per esempio, di aumento dei costi dei servizi. Mi viene da dire che spesso l'unica cosa che viene chiesta al cittadino è appunto l'aumento del costo del servizio come partecipazione, quando invece ci sono tante iniziative che magari si bloccano perché non c'è lo spazio per semplicemente poter dare il proprio contributo senza troppe complicazioni. Grazie. Non ho finito. Andiamo verso la fine. In termini concreti, il lavoro. Nel senso, cosa vuol dire che l'amministrazione debba dare un contributo al lavoro che non riguarda soltanto il giovane? Perché mi sembrerebbe francamente limitante, limitativo, perché i giovani hanno dei genitori e hanno anche delle persone che, insomma, si fa parte di famiglie, non di categorie. E mi viene da chiedere quale sia lo spazio anche concreto, visto che c'era una volta il progetto Giovani e al momento ha la bacheca la bacheca lavoro fuori servizio da, io che io sappia, almeno un mese, se non di più. E quella è una questione concreta. E poi l'ultima domanda che volevo farvi era appunto più che altro dare orientamenti eventualmente. Per quanto riguarda invece la ridente questione di quanto costa uno spritz, francamente sarebbe bello rivedere il centro di Padova vivo, al di là delle questioni varie. Grazie. C'era ancora un'altra domanda, eccola lì, prego. Sì, intanto mi presento, sono Cristina Toso, sono presidente di un'associazione che si chiama Atelier delle Idee, dove portiamo avanti laboratori di cittadinanza attiva, in particolare per la crescita sociale. Sono molto contenta questa sera, perché mi avete riportato quando avevo 28 anni, ho fatto la vostra stessa scuola, e quindi mi avete rimesso in moto un po' di neuroni, insomma. Una cosa di cui vi ringrazio è che questa sera non avete parlato di sicurezza, perché va molto di moda, ma molto spesso ne sfugge lo spessore, il senso, perché l'avete fatta emergere da tutti gli argomenti che avete affrontato, anche se solo per spunti, e avete fatto emergere che una città può avere un futuro se si lavora su tutti gli ambiti, non portando fino in fondo solo un aspetto, ma cercando di far crescere tutti gli ambiti, perché è come un papà o una mamma in una famiglia, non può far crescere un figlio solo se ne ha quattro, deve cercare di farli crescere tutti e quattro in modo armonico. La domanda però è questa: come in un approccio intergenerazionale mettere insieme questi spunti, queste azioni, perché queste poi diventeranno azioni concrete, perché voi giovani siete cresciuti con la raccolta differenziata, ma gli anziani no. Voi giovani siete cresciuti con il senso del parco, ma gli anziani no. E come abbiamo come ha sottolineato la signora in precedenza, la popolazione di Padova, ahimè, in bene e in meno bene, è una popolazione che è giovane grazie ai 66.000 studenti universitari presenti, ma è una popolazione che è anziana perché gli over 70 sono molti e abbisognano di una serie di servizi. Grazie. Grazie. Bene, allora ci sono due interventi da parte dei nostri giovani e poi riprendiamo con le domande vostre. Allora Marta. Sì, io brevemente volevo dire qualcosa sui punti di riferimento a cui si riferiva Emanuela, mi pare, sul fatto che noi abbiamo, parlando fra di noi, trovato effettivamente un po', ci siamo ritrovati in quello che diceva Calogero, non sappiamo bene a chi rivolgerci per fare cosa, e si parlava così ipoteticamente di uno sportello un po' dei sogni, nel senso dove uno può andare a chiedere effettivamente che cosa offre la città di Padova, di spazi che ci sono già da poter usare, per le nostre associazioni e per degli eventi che sono aperti anche a tutta la cittadinanza. E sul fatto di dividere le responsabilità, sicuramente noi ci sentiamo di spenderci in prima persona. Dico ad esempio, se ci fosse un modo per sapere quali sale comunali sono usufruibili, per quanto tempo e da chi, noi ci potremmo anche mettere d'impegno per cercare di gestirle, tenerle aperte, assicurare che vengano gestite insomma in modo responsabile e prenderci la responsabilità proprio personalmente di usare, di far usare gli spazi che sono poi di tutti. Di questo bene comune un po' ci sentiamo custodi e anche vorremmo che fosse a disposizione di tutti in modo più facile. Ci troviamo spesso, io parlo per me, per la mia piccola attività che faccio nel mio servizio, a non sapere quali spazi si possono usare, a dover chiedere un milione di permessi per poter usare un parco pubblico, per avere la disponibilità di una sala, ci sono centinaia di vincoli. Perché non rendere tutto questo più facile proprio per, come si diceva, incentivare quelle iniziative che sono poi la costruzione della rete sociale che vorremmo in questa comunità cittadina, ecco. Grazie Marta. Marco. Sì, no, sul tema del lavoro, allora, due cose. Uno, gli uffici comunali non si devono sostituire agli uffici interinali, cioè di ricerca lavoro, cioè questo deve essere chiaro. Quello che io volevo dire è che il comune deve creare, tessere una rete con tutti quelli che sono gli enti locali che si occupano del lavoro per far sì che ci sia l'opportunità di dare indicazioni a chi ne ha bisogno. Se uno perde la casa, se uno non ha più lavoro, da chi fa? Oh, dal prete in parrocchia o da Caritas o da diocesi oppure dagli enti amministrativi, ma dal sindaco, ho perso la casa, ho perso il lavoro. Quindi andando molto sul concreto, il sindaco se non conosce niente del suo territorio fa fatica a dare indicazione, non è che il sindaco deve trovare il posto di lavoro alla persona che l'ha perso, però deve dare indicazione, guarda che questo ufficio comunale ti dà la possibilità di una lista di servizi da cui puoi attingere, cioè se c'è una rete capillare di comunicazione tra quelli che sono i vari enti presenti sul territorio, c'è facilmente anche la possibilità di comunicare con le persone che ne hanno bisogno. Questo punto numero uno. Punto numero due, in questo senso si sa benissimo che ciò che non si sa non esiste. Tradotto, cosa vuol dire? Il progetto Giovani c'è in internet, ma all'università, Calogero, sai del progetto Giovani? Fantastico. Quindi, di per sé, se il progetto Giovani non viene pubblicizzato, non esiste. Cioè, il concetto è molto semplice. Quindi di per sé l'amministrazione comunale o il comune o di per sé quando vengono messe a disposizione delle finanze per una serie di progetti, la parte di pubblicità non può andare staccata. Cioè l'amministrazione comunale si deve impegnare a comunicare anche quello che fa. In questo senso c'è anche un ritorno per l'amministrazione comunale. Quindi progetto Giovani, benissimo, da una parte... Vabbè, la bacheca è fuori sede, però cioè fuori funzione, però diciamo che può dare sicuramente uno spunto d'aiuto per le persone che stanno cercando e dall'altra parte sponsorizzare questo anche al di fuori di quello che è il semplice uffici comunali, perché solitamente siamo un po' tentati di vago in ufficio, da che ufficio vago, non lo so, cioè, invece se c'è magari una collaborazione con l'università è l'università stessa che dà l'input, però questo si crea solo nel momento in cui tra l'amministrazione comunale e i vari enti presenti sul territorio fanno rete. Grazie. Bene, riprendiamo allora dal pubblico, c'era un intervento qui. Buonasera, sono Nerio Tiso. Volevo solamente dare qualche numero, giusto per capire la prospettiva, poi volevo sentire anche la risposta dei nostri giovani. Spero che tutti sappiano che Padova è un calo di abitanti, okay. E che noi abbiamo 44.000 famiglie con una persona, di cui 17.000 circa hanno oltre 65 anni, che gli ottantenni sono 1.991, mentre i diciottenni 1.671. Ok, questo penso abbiate già capito. E che ci sono però 8.000 case sfitte nella nostra città. Allora, per dire quale prospettiva c'è, perché noi parliamo dei giovani oggi, ma penso che dovremmo parlare dei giovani del futuro, e se i giovani di oggi, domani mattina, si troveranno ad essere a piedi e non avere una casa, oppure avere delle case che hanno degli affitti esagerati, questi cosa fanno? Vanno ad abitare da altre parti, giustamente, dove possono trovare delle opportunità migliori. Allora, io penso, ma lo chiedo anche a voi, insomma, che si debba guardare oggi e pensare per il futuro, trovando non le risorse, ma trovando sicuramente delle politiche che possano garantire alle persone che oggi sono giovani, domani si costruiranno una famiglia, eccetera, di non andarsene dalla nostra città, di non andarsene. Perché se si vanno, se se ne vanno dalla nostra città, la nostra città si impoverisce. Bene che ci siano gli ottantenni, perché vuol dire che si vive ancora decentemente, ma se non ci sono anche i trentenni o i trentacinquenni, evidentemente manca il futuro. Allora io penso che per guardare il futuro bisogna trovare degli strumenti accessibili, con dei prezzi ragionevoli, con delle prospettive anche attraverso altri enti, parlo di Stato, Regioni, parlo di Europa, dove si possono trovare delle risorse da poter investire. Concludo solamente dicendo che a Milano nel giro di 2 anni sono aumentati di 50.000 persone. Ci sarà un motivo. Grazie. C'era, ecco qua, un intervento anche da questa parte. Il microfono arriva subito. Mi chiamo Carmine. Vivo a Padova, non sono padovano. Una domanda e una richiesta. Tutti gli interventi si potrebbero mettere sotto il titolo Padova città vivibile, perché Padova sia città vivibile. Se questo titolo è corretto, devo cominciarlo a vedere da chi è più a disagio a Padova. E mi riferisco, Padova può diventare città vivibile anche dai senza fissa dimora, senza essere svegliati vivendo all'addiaccio nel cuore della notte della polizia locale? Una donna può vendere una piantina, cercare di vendere una piantina per fare qualche soldo, senza essere multati per 5.000 euro per abuso di commercio? Perché città vivibile è questa, dobbiamo cominciarla a vedere da chi è più a disagio. E trasformare quello che in questi ultimi tempi è stato chiamato decoro della città e si intende espulsione dalla città, a cominciare dal centro, proprio da delle persone che sono più a disagio, e dare invece un senso più umano al decoro di una città, laddove si possa vivere anche da chi non ce la fa. Una richiesta: che questo tipo di incontri non resti fermo alla stagione elettorale, ma che diventi prassi di vita democratica, anche con associazioni che non hanno ispirazione cattolica o di chiesa, che diventi un senso appunto di partecipazione civica. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Un'altra domanda. Sono Emanuele Alecci. Innanzitutto volevo dire che sono rimasto molto colpito dalle cose che avete detto. Ho sentito delle cose belle, e anche, come dire, delle cose innovative. Mi sembra che alle cose che avete detto bisognerebbe aggiungere anche una constatazione che in qualche modo è uscita. Cioè, la nostra è una città dove i corpi intermedi sono molto importanti. È una delle città più ricche di organizzazioni associative, di associazioni di volontariato, di associazioni ecclesiali, di associazioni giovanili, di associazioni culturali e di associazioni sportive. Anzi, forse è una di quelle che ha un tasso più alto e credo che in un momento elettorale, ma non esclusivamente, perché sarebbe un gravissimo errore, questi corpi intermedi devono farsi sentire. Ecco, mi sembra che le cose che voi avete detto oggi siano in questo senso. A me pare che sia un fatto molto importante. Dall'altra parte, e questa è una cosa nuova che sta avvenendo in città e io la ritengo molto positiva, l'altra cosa che è importante anche ricordare è che ci stanno muovendo anche altri mondi associativi. Per esempio il mondo del volontariato sta facendo una riflessione come quella che state facendo voi, la sta facendo ovviamente con molta più attenzione ai tempi del sociale, della socialità. Però le cose che ho sentito oggi sono molto simili alle questioni che stiamo dibattendo nei tavoli di contaminazione che abbiamo avviato in questi ultimi giorni. Quindi grande attenzione ai corpi intermedi, perché noi e voi ci avete fatto capire che avete una lente che ci fa vedere le cose in maniera diversa. E se la politica non si accorge che è importante usare questa lente, sta facendo un gravissimo errore. E l'altra cosa, una grande attenzione ai temi della partecipazione, come avete detto, ma ai temi anche della partecipazione e della legalità. Perché la legalità è importante. Vuol dire rendere trasparente le informazioni e rendere trasparenti le comunicazioni e rendere trasparenti le decisioni. Credo che questo sia un fatto importante di democrazia che chiedono i corpi intermedi e che voi oggi, questa sera, ce l'avete ricordato. Vi ringrazio ancora. Molte grazie. Ecco un altro intervento. Buonasera, io sono Giovanni, sono un giovane, parola abusata stasera, ma sono un giovane... presente sia in AGESCI che in ACI, che sono due delle associazioni presenti stasera, come tante altre. Queste due associazioni, appunto, come altre stasera, si prendono l'incarico principale, quello della formazione dell'individuo, del giovane in un caso, della persona nell'altro. E di questo volevo dire due parole, perché ci sarebbe tantissimo, ho preso tanti appunti, ci sarebbe tantissimo da dire su Padova, perché è una città che amiamo, però stasera siamo tra associazioni cattoliche, quindi ci sono dei temi che forse ci premono più di altri, come gli ultimi che abbiamo appena citato. Però anche quello dell'educazione dell'individuo sta particolarmente a cuore. Allora volevo chiedere un po' ai miei anche rappresentanti che sono qua, ma insomma come ci sono anche in tutta la sala, ci riappropriamo del concetto di educazione alla politica dei nostri ragazzi, perché è un concetto che appartiene alla storia della Chiesa e che appartiene alla nostra, alle nostre associazioni, che è nei nostri statuti, che è, credo, nei nostri doveri. E in questo senso vorrei veramente che una delle interfacce privilegiate nel nostro parlare di politica sia l'amministrazione cittadina, perché noi ne parliamo spesso e anche giustamente forse su termini teorici e dove si traducono nel pratico, che si traducono sempre in temi di rapporto personale, che è giusto, che è quello del servizio. Però l'amministrazione cittadina deve tornare ad essere una nostra amica, deve tornare ad essere un'interfaccia a cui possiamo dire ai nostri ragazzi: questa è la città, questa è la nostra comunità, prima. La seconda cosa che chiedo, sempre da un punto di vista di associazioni giovanili cattoliche, Vorrei che noi trovassimo la forza di agire nei contesti politici in rappresentanza dei nostri aderenti, perché una persona non tanto tempo fa ultimamente mi ha detto che gli adulti, quando non sanno di che cosa parlare, parlano di giovani, che si mette tutti d'accordo. È bello essere una figurina voluta da molti, è bello che le copertine con noi vendano, però noi abbiamo degli incarichi, noi abbiamo un compito di rappresentanza e dobbiamo stare attenti al pericolo di venire usati da qualcuno perché effettivamente siamo belli e sorridenti, anche se non siamo belli siamo sorridenti lo stesso. Ricordiamoci appunto che abbiamo anche dei compiti di rappresentanza, abbiamo dei compiti per rompere le scatole alle persone che vengono a chiederci il nostro aiuto. Grazie Giovanni. Pietro. Ok, grazie. Sono stati interventi molto interessanti questi ultimi, mi sono piaciuti molto. E grazie perché hanno sottolineato qualcosa che già ci tenevo a dire nel mio intervento e che abbiamo sentito tutti molto forte. Il fatto che sia uno scandalo, che ci siano molte case sfitte e che ci siano molte persone senza dimora in Padova, anche a Padova. E che sia uno scandalo che a volte il tema dei senza dimora sia trattato come un tema di decoro urbano, come se fosse una cosa che lì fa brutto. Perché è vero che tanti, quando si trova qualcuno che ti tende la mano e magari non hai soldi o ne hai già dati a 3-4 persone prima, ti dà fastidio. Però non dobbiamo fermarci quel fastidio, non possiamo fermarci come cattolici, come cristiani, come uomini, non possiamo fermarci quel fastidio e sperare che scompaiano così. Ma invece operare perché non ci siano più persone obbligate a tendere la mano per poter mangiare, per avere qualcosa. Questo è un tema che ha toccato tantissimi di noi. E infatti ci riflettevo sul fatto, quando ci dicevano che non abbiamo parlato di sicurezza. È vero, nelle discussioni che abbiamo fatto per arrivare fin qua, il tema sicurezza non è mai stato sfiorato. Ma nessuno è venuto in mente, non è una delle prime priorità che vengono in mente la discussione tra giovani in queste cose. Un tema che... Un tema che invece è venuto fuori nelle discussioni e non è venuto fuori ancora adesso, per cui volevo buttarlo lì, forse anche perché è dato quasi per scontato, è invece il tema dell'accoglienza. Non abbiamo ancora detto mai la parola migrante o extracomunitario o straniero, però è un tema radicato nella nostra cultura cattolica, sin dal Vangelo, quando in Matteo ci ricorda, Matteo 25 mi sembra, ci ricorda che riconosciamo Gesù negli stranieri che accogliamo, e poi ce lo ricorda il Papa continuamente, ma ce lo ricordano le nostre associazioni che lavorano tantissimo con i migranti, con i richiedenti asilo, con gli stranieri che arrivano o che sono a Padova da decine d'anni. E l'ACLI in particolare, cioè l'ACLI lo so per certo perché ne faccio parte, ma anche altre, lo so. E tantissimi giovani, ad esempio, quando decidono di fare volontariato lo fanno in scuole di italiano per migranti. Veramente tantissimi, cioè già io tra i miei conoscenti ne conosco vari e tra i conoscenti e conoscenti ancora di più. Quindi questo è un tema che ci sta molto a cuore. Bene, passo il microfono a qualcun altro. Mi sento di riprendere un attimo quello che è stato appena detto e anche a riguardo della provocazione così sulla città vivibile. Appunto, non direttamente riguardo ai senza fissa dimora eccetera, ma più prendendosi larghi appunto sulla situazione di sicurezza, di decoro urbano. Quando abbiamo elaborato un po' questi argomenti non abbiamo toccato la questione della sicurezza, però poi quando stavamo elaborando la riflessione più nel particolare nelle aree verdi, le aree pubbliche, quindi anche i luoghi di socializzazione dove tenere le attività sportive, è nata un attimo la domanda del tipo sì, ok, apro aree verdi, apro spazi, ma poi come la mettiamo con la situazione del degrado, no? Però è nata anche subito la risposta, cioè il degrado c'è se lo spazio non è vissuto. Se lo spazio viene vissuto dall'intera comunità, magari anche del quartiere, prendiamo un parco che vive questo parco come punto di socializzazione, di ritrovo, di incontro, se ci sono le persone che lo vivono, questo spazio non lo lasciano aperto al degrado, perché comunque è quella un po' la questione. Se io ho una casa vuota, e chiudo la porta e il ladro mi entra dalla finestra, ma se in casa c'è gente il ladro non entra. Ecco. Grazie. Pietro? Volevo riprendere il tema del fatto che noi rappresentiamo delle associazioni cattoliche e quindi rispondiamo a dei valori. Condivido quello che si è detto, d'altra parte anche supportato dal Magistero della Chiesa, soprattutto nel merito alla dottrina sociale. Comunque ricordo ai nostri governanti che il dovere di tutela del governante va verso il più prossimo. Il più prossimo dei prossimi, in un certo senso, ricordiamoci sempre che sono i padovani. Questo è un dovere che anche la riflessione morale di cui che io studio all'università, che dovrebbe essere fatta proprio da tutti, nel senso che in tempi di magra c'è, come dire, una scala di priorità. D'altra parte esistono anche molti altri valori, ricordo per esempio i valori non negoziabili che forse a volte compaiono poco nei nostri dibattiti di discussione, ma che dovremmo sempre fare presente in temi di dibattito civile che coinvolge la vita di tutti noi a più livelli e a più ambiti. Grazie. Grazie a te. Il microfono rimane aperto. Ecco lì, c'è un'altra domanda. Io sono Massimo. No, pensavo, no, che questa sera, questo è un incontro in cui naturalmente ci sono dei giovani che esprimono delle sensibilità, delle urgenze. Però, a conti fatti, queste sensibilità, queste urgenze riguardano tutta la cittadinanza. Non è che un adulto o un anziano non senta il problema dell'ambiente piuttosto che quello della mobilità, eccetera, eccetera. Dico questo perché, voglio dire, non è che ci siano... Sì, ci sono degli temi specifici che riguardano gli adulti anziani, dei temi specifici che riguardano i giovani, ma ci sono la stragrande maggioranza dei temi, dei problemi, sono legati a tutta la cittadinanza. E quindi è importante anche avere una capacità di incontro intergenerazionale nell'affrontare i problemi e nel porli. E quindi la capacità anche di avere degli adulti e dei giovani che assieme portano avanti determinate battaglie, perché i problemi sono comuni, toccano la vita quotidiana di ognuno. E quindi questo è molto importante capirlo, perché poi, ripeto, questi temi che abbiamo affrontato questa sera sono temi che, per esempio, possono riguardarmi personalmente, possono riguardare me o qualsiasi altra persona al di là, appunto, dell'età che ha. E questo è uno stimolo per cercare anche un confronto intergenerazionale, perché su queste cose si possono trovare, si devono trovare delle convergenze e delle collaborazioni comuni per riuscire a portare avanti determinate battaglie. Poi volevo dire anche rispetto così ai ruoli delle associazioni, si è parlato molto di dialogo, di confronto, ed è importantissimo. Però ci sono anche delle fasi in cui il dialogo è più difficile, ci sono delle fasi in cui c'è anche il rischio del conflitto, anche con le istituzioni a volte. Quindi dobbiamo essere anche capaci di gestire un conflitto, essere capaci anche di, se serve, di fare delle denunce, no? Di fronte a qualsiasi amministrazione comunale, perché non sempre le cose vengono risolte, diciamo, no? Almeno all'inizio con il dialogo, a volte si passa anche attraverso la fase del conflitto, perché questo fa parte della realtà. E bisogna essere anche capaci, essere allenati a gestire il conflitto, a ricomporlo e a superarlo. Perché, voglio dire, poi si diceva prima che non sempre tutti sono d'accordo su tutte le cose, però proprio perché la società è molto variegata, è molto complessa, bisogna anche avere la capacità di far sintesi, di affrontare i conflitti e di superarli, perché appunto poi non sempre sui progetti o sulle idee le convergenze sono immediate o sono possibili, e quindi bisogna anche imparare, e questo è un motivo di crescita, a gestire le fasi più delicate che magari può affrontare una società e una città. Grazie. Prego. Sì, buonasera, sono Giampiero dalla Zuanna. No, io, oltre a ringraziare per questa serata molto interessante, volevo fare una riflessione molto rapida. Quasi tutte le cose che sono state dette oggi sono state dette con riferimento alla città di Padova in senso stretto. Ecco, io, visto che state facendo questo percorso di riflessione in fare associazioni, veramente vi stimolo a cercare di allargarlo anche ai comuni intorno a Padova, perché la gran parte dei problemi che anche avete evocato voi oggi sono irrisolvibili se sono visti solo dalla città in senso stretto. Faccio un esempio molto pratico, quello delle piste ciclabili, per esempio. Se voi provate ad andare in bicicletta e cercare di uscire dalla città, eccetera, quasi dappertutto c'è una frattura fra ciò che si può fare in città e ciò che si può fare uscendo dai confini della città. Evidentemente questa cosa soffre di un mancato coordinamento che c'è stato in questi anni fra appunto la città e i comuni contermini. Tenete conto che ci sono ogni giorno 200.000 spostamenti in ingresso verso Padova dai comuni attorno. Quindi, visto che voi appunto come associazioni siete non solo limitati alla città, ma siete tutti quanti anche nei comuni intorno, se riuscite a estendere questa riflessione anche ai vostri coetanei che sono all'esterno, credo che ne sarebbe molto arricchita. Grazie. Allora direi che ci avviamo verso la conclusione. Faccio un ultimo, ecco, c'è un ultimo intervento, ce ne sono altri due. Vi prego di alzare le mani ora, insomma, perché siamo proprio allo sprint finale, vista anche l'ora. Ecco qua, il primo intervento è qui. Grazie Claudio. Io spero che stasera non si esca da qui sentendo tanti di noi adulti che vi diranno che bravi ragazzi. Spero che manteniate la forza per disturbare i manovratori ora, domani e dopodomani. Detto questo, però, bisogna saperlo fare, penso, l'azione di disturbo, quindi essere informati, essere competenti, confrontarsi, per cui penso che alcune cose che ho sentito vadano riprese. Giovanni, se ricordo bene, diceva: abbiamo un compito specifico come associazioni di rappresentare in tutte le sedi le associazioni, i giovani, le persone, eccetera, eccetera. E credo che questo dipenda solo da voi. Quindi se ci sarà un luogo o dei luoghi dove incontrare le istituzioni, l'università, eccetera, dipenderà molto da voi e dalla volontà di essere interlocutori, oltre agli strumenti che già un'amministrazione può dare o può offrire o prevede. Una cosa che secondo me va fatta è quella di riuscire a dare continuità ad alcuni percorsi. Ad esempio, come conclusione della visita pastorale che è stata fatta qualche anno fa in città, era stato costruito, penso, quinta o sesta città in Italia, un patto tra l'amministrazione, le politiche giovanili, scolastiche, sociali e la pastorale cittadina, la pastorale giovanile cittadina, per fare che cosa? Per fare politiche di educazione in tutto il territorio della città, comprendendo tutte o tante delle attività che le parrocchie, le associazioni, i gruppi già avevano in essere, obbligando ciascuno a fare rete, a mettere insieme tanti pezzi per non andare divisi. Io non lo so se esiste ancora questo patto, se è ancora attivo, lo chiedo a voi, e forse potrebbe essere una cosa da fare, capire quello che c'è a disposizione o che c'era, se c'è ancora, se è valido, se è utile, che fine ha fatto e se può essere valorizzato o rivisto, aggiornato per fare meglio. Grazie. Ultimo intervento. Sì, buonasera. Anch'io voglio intanto dire che è una serata molto stimolante e vorrei provare a stimolare ancora un po' di più la vostra voglia di partecipazione. E vi sottopongo questa questione, mi interessa sentire la vostra opinione e anche per il prosieguo. Avete parlato giustamente di tantissimi argomenti, in particolare che ruotano attorno al tema dell'amministrazione, no? Il comune, il sindaco, l'amministrazione. E io vedo, e vi sprono su questo, a riflettere sul fatto che l'amministrazione è ritenuta generalmente una parola fredda, una struttura, qualcosa di... E qui c'è invece uno spazio enorme per collegare l'amministrazione alla realtà, a come affrontare, a come risolvere i problemi, e c'è bisogno di qualcuno che sappia farsi comune, farsi amministrazione per far vivere questi temi. Finisco subito con un esempio. Noi abbiamo già da qualche mese, dal 1 settembre esattamente dello scorso anno, una legge che riguarda anche Padova, che riguarda il sostegno alla povertà e che dà circa 400 euro alle famiglie più bisognose. Questa cosa però è pochissimo conosciuta. Un po' la Caritas ha fatto qualche corso. Siccome questo è un intervento che passerà per i comuni e sarà potenziato anche prossimamente in maniera molto forte, c'è bisogno che ci sia chi fa vivere, no, voi avete parlato dare voce, rappresentare, partecipare, ecco, questo, far vivere questa esperienza, farla conoscere, rendere l'amministrazione un fatto vivo, i cittadini, i giovani, quel che si fanno amministrazione. E le stesse cose le potremmo dire, è stato toccato il tema dell'accoglienza, stiamo cercando in Parlamento di fare adesso una legge sull'accoglienza diffusa che diventi un fatto di protagonismo e di responsabilità, e lo stesso potremmo dire per esempio sul tema giovani lavoro, sapete che è in vigore da qualche tempo il tema dell'alternanza scuola-lavoro. Sono tutte cose che devono essere vissute da protagonisti ed è uno spazio che va riempito, perché diversamente diventa una cosa burocratica che non ottiene nessun risultato, e questo passa per il territorio e per il comune. Quindi l'impegno secondo me delle associazioni è quello di farsi direttamente, partecipativamente comune. Grazie. Bene, questo si direbbe il tempo delle conclusioni. In realtà questo di ora, questo esatto momento in cui parlo io, non è affatto una conclusione. È chiaro per questi giovani, per le associazioni di cui fanno parte, che oggi si è aperto anzi qualcosa, più che concludere. Però l'avete visto chiaramente, l'abbiamo visto tutti, insomma, cittadini, membri delle istituzioni, persone impegnate nella Chiesa, è un dialogo che si sta facendo, è in fieri. Gli sviluppi sono un tema che vengono adesso, d'accordo? Il ringraziamento mio personale è sicuramente a chi ha condotto il lavoro, a chi si è preso veramente la responsabilità anche di viverlo, quindi i giovani, le associazioni, la FISP. Il ringraziamento però è anche a voi, perché penso che, ragazzi, di spunti ne avete avuti stasera, di spunti anche di richieste, di chiarimenti rispetto ai singoli temi piuttosto che al percorso. Penso che ci sia veramente molto lavoro volendo da fare per mettere in pratica la vostra voglia di partecipazione, no? Anche il vostro coraggio di aprirvi così al dibattito, al dialogo questa sera. Io voglio ringraziare sicuramente anche le persone qui presenti che si stanno impegnando, perché sono in corsa, si stanno mettendo a disposizione della città per essere elette, sono venute, hanno ascoltato, qualcuno è intervenuto, benissimo, grazie di come avete partecipato anche voi a questa serata. E arrivederci e a risentirci. Le associazioni vivono ogni giorno, non hanno questo come specifico, ma sono presenti, sapete dove trovarle, fatevi vivi, loro sono operativi, sono vivi e sono impegnati. Con questo io vi ringrazio, vi saluto e buona continuazione a tutti. I giorni della Chiesa. Grazie a Luca Bortoli, collega del settimanale La Difesa del Popolo, che ha moderato questa serata svoltasi il 16 marzo in Sala Cardinal Callegari a Padova, insieme per Dio e la città che vorremmo, i giovani delle principali aggregazioni laicali, di generazione in generazione verso la città futura, iniziativa dell'Azione Cattolica, della GESCI, delle ACLI, del Centro Sportivo Italiano, Papa Giovanni XXIII, Fucci, Noi Associazione, insieme alla Scuola di Formazione e l'Impegno Sociale e politico della diocesi di Padova. Grazie a Francesco Galante per la parte tecnica e di Daici per la regia. A voi tutti per l'ascolto. Da Mirko Cavallin, buon proseguimento con i nostri programmi.